Benvenuti a tutti e a tutte alla radio. Oggi parliamo della strage di Piazza Fontana e della successiva uccisione da parte della polizia di Giuseppe Pinelli. Attraverso che cosa? Attraverso ovviamente le canzoni e soprattutto anche attraverso una testimonianza audio di Annata. Ritrovabile su YouTube e anche attraverso un breve intervento delle due sorelle Pinelli, Claudia e Silvia, che mi hanno gentilmente concesso ieri durante la commemorazione di Giuseppe Pinelli al quartiere San Siro a Micene. E infine parleremo di Pietro Valpreda e di anche un compagno che morì l'anno dopo, alla prima manifestazione in memoria della strage di Piazza Fontana, ovvero il compagno Saverio Saltarelli. E quindi buon ascolto, adesso ci ascoltiamo Piazza Fontana o Luna Rossa degli Yukung. In piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Dio come tutto vola così in fretta, risparmi e gente tutto così in fretta. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa e di violenza. Bisogna piangere i sonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, metterò casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia. Là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i sonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Notti di sangue e di terrore scendono a valle sul mio paese. Pagherà le vittime innocenti, chi darà vita a Pinelli il ferroviere. Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Sulla montagna dei martiri nostri, tanto giurando su Gramsci e Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti. Come un vecchio discende il fascismo, succhia la vita ad ogni gioventù. E non sentite le grida sulla barricata, la classe operaia lo aspetterà armata. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. dopo aver ascoltato Luna Rossa, Piazza Fontana degli Yukung, scritta da Claudio Bernieri nel 1971, vediamo di capire che cos'è Piazza Fontana, che cosa, perché è così importante ricordarla anche oggi, che sono passati 52 anni. Diciamo che Piazza Fontana fu dichiarata, la strage di Piazza Fontana fu dichiarata come madre di tutte le stragi, perché fu la prima strage che si ascrive dentro un progetto politico e criminale che va sotto il nome di strategia della tensione, ovvero una collaborazione segreta tra Stato e organizzazioni neofasciste, tra cui Ordine Nuovo, che per far fronte alla potenza di cambiamento dei movimenti studenteschi operai del 1968-1969, attuano Stato e fascisti un sistematico utilizzo del terrore attraverso l'utilizzo di ordigni esplosivi all'interno di stazioni, di banche, di manifestazioni di insegnanti, atte a terrorizzare le persone, di creare tensione, quindi di far perdere alla volontà di cambiamento la propria forza. Che cosa successe esattamente il 12 dicembre 69. Fu introdotta una borsa piena di esplosivo all'interno della banca. Alle 16:37 del 12 dicembre esplose, mietendo 17 vittime e 88 e vi furono anche 88 feriti. Ovviamente le istituzioni non potevano svelare questo progetto, no? Questo progetto di destabilizzazione dello Stato, fatto dallo Stato. E quindi i primi a essere chiamati in causa come colpevoli furono gli anarchici. Questo piano accusatorio verso gli anarchici ha due volti noti, ahimè. Uno era il compagno Giuseppe Pinelli, che venne convocato dall'allora commissario Luigi Calabresi, commissario della polizia politica della Questura di Milano, a presentarsi in questura. Lui andò con il motorino, venne interrogato e il 16 dicembre la mattina fu trovato morto nel giardino della questura. Quindi ci furono varie congetture sul malore attivo, si è sentito male, ha aperto la finestra, è caduto giù. In realtà, come si è sempre saputo, come tutti abbiamo già capito, qualcuno all'interno della stanza, dato che Giuseppe Pinelli era assolutamente all'oscuro della strage, loro credendolo reticente a parlare, decise di scaraventarlo giù dalla finestra al quarto piano della questura di Milano. Non contenti, gli inquirenti perseguitarono un altro anarchico, Pietro Valpreda, che ebbe una persecuzione politica, giudiziaria e mass mediatica lunga 20 anni. Sentiremo fra poco l'estratto del telegiornale del 15 dicembre 1969, dove un giornalista che è tuttora attivo, Bruno Vespa, farà il nome di Pietro Valpreda come responsabile. Abbiamo il colpevole, dice, abbiamo il colpevole, abbiamo il nome della strage di Piazza Fontana, e lo lega in qualche modo a altre due bombe che lo stesso 12 dicembre scoppiarono a 600 km di distanza, ovvero a Roma, una al Milite Ignoto, l'altra ad una banca, che mieterono solo 17 feriti. Ovviamente la Milano democratica, la Milano socialista, comunista, e ovviamente gli anarchici, non credettero neanche un secondo alla colpevolezza di Giuseppe Pinelli, animatore, fondatore e frequentatore del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, e dall'indignazione civile di giornalisti, avvocati, come giornalista mi viene in mente Camilla Cederno, nacque un controinchiesta, una volta le controinchieste si facevano, che va sotto il nome di la strage di Stato, che Feltrinelli, proprio Gian Giacomo, prima di farsi esplodere, prima di morire su un palo della Luce a Segrate, pubblicò, dove ribaltavano totalmente la struttura accusatoria su Pinelli e su Valpreda. Oltretutto, quello che fa molto ridere è che la questura di Milano, guidata ai tempi da Guida, che ex fascista, anzi fascista, fu lui a tenere in detenzione presso il carcere di Ventotene Pertini, il presidente Pertini. Infatti c'è la famosa volta che Pertini, da presidente della Camera, andò a Milano e si rifiutò di stringergli la mano. Cercarono in tutti i modi la questura di Milano, guidata da Guida, cercò di scaricare addosso agli anarchici la colpa. Perché ho detto male di tutte le stragi? Perché ho parlato di strategia della tensione. Perché la strategia della tensione fu l'evento, o la serie di eventi, meglio la serie di eventi, che tenne bloccata l'intera nazione dal 69 al 1980, da Piazza Fontana alla strage di Bologna, della stazione di Bologna, passando per Brescia, per l'Italicus, perché erano preoccupati, nel senso che comunque il 68 fu un movimento che nel bene o nel male cercò di cambiare radicalmente la società, i costumi, aumentarono i diritti dei lavoratori, vedi lo statuto dei lavoratori del 1970. E una certa classe dirigente non voleva questo cambiamento, tanto da allearsi con le associazioni neofasciste, tra cui Ordine Nuovo. Quindi adesso io manderei l'estratto del telegiornale e ci sentiamo dopo. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Eccoci tornati dopo lo sproloquio di Bruno Vespa sul colpevole della strage di Piazza Fontana. Vorrei far notare la granitica certezza che Vespa utilizza nell'indicare il nome di Pietro Valpreda come esecutore materiale della strage. Secondo me, ha senso, dopo questa spiegazione da storico, da appassionato, di storia politica del paese, andare direttamente da chi ha sofferto la perdita materiale di una persona cara, di un padre, dovettero affrontare anni di minacce, oltre alla perdita affettiva di un padre, si sentirono anche in obbligo, si sentono tuttora in obbligo di tenere viva la memoria di Giuseppe Pinelli. Sto parlando ovviamente delle sorelle Claudia e Silvia Pinelli, che con la mamma Licia Pinelli hanno cercato di non far dimenticare questo pezzo di storia, questa ingiustizia, questo morto dello Stato. E quindi io ieri ero in Micene, dove da molto tempo, il 14 dicembre, dato che Pinelli abitava in via Preneste, fanno come spazio Micene una serata con un incontro, dibattito su una nuova opera legata alla Piazza Fontana Pinelli, che poi si conclude con un breve corteo dallo spazio Micene fino alla casa di Pinelli, dove c'è una targa dove c'è scritto l'unica parola che si può usare: ucciso, Giuseppe Pinelli, ucciso dallo Stato. E durante questo incontro, questo corteo, ho chiesto alle sorelle Pinelli di darci una dichiarazione, è brevissima, sono due domande, sono le stesse due domande fatte ad entrambe, perché mi interessava capire che cosa ne pensassero, visto che Silvia e Claudia sono comunque due persone diverse. In effetti, sentite, benché le domande siano più o meno uguali, siano uguali, identiche, le risposte sono leggermente diverse. Ovviamente nella concitazione non c'è stato il tempo di fare una intervista più approfondita. Mi riprometto di magari invitarle a Malaradio se vorranno, e parleremo più approfonditamente di tutto, della faccenda giudiziaria, mi sono su queste due con queste due domande io invece mi sono voluto soffermare sul senso della memoria e sulla presenza dei ragazzi giovani all'interno delle varie manifestazioni che ci sono state il 12 dicembre, per ricordare sia la strage sia la morte di Giuseppe Pinelli. Benvenuti a tutte e tutte su Malaradio, siamo qui con Claudia Pinelli, siamo qui in Micene, oggi 14 dicembre, per commemorare la memoria di Pino Pinelli. Tanto benvenuta. Ciao a tutti, grazie. E che senso ha ancora nel 2021 ricordare la figura di tuo papà? Ma innanzitutto perché lui era una persona estremamente attiva, che viveva attivamente il suo tempo e lottava come dobbiamo fare ancora noi adesso. Chiaramente ricordiamo la figura di Giuseppe Pinelli e anche la sua tragica fine, ma questo ci dà solo uno sprone in più per continuare ad andare avanti. La memoria deve essere questo, no? Un filo di luce puntato verso il futuro. E comunque è ancora bello vedere anche dei giovani, no? Perché comunque sono passati 52 anni da quell'evento. È bello vedere anche in piazza, tipo il 12, abbiamo visto un sacco di ragazzi, che avevano le idee molto chiare su quello che era stata la strage, su quello che era successo tuo padre e tutto quanto. Cioè, questo ti dà forza, no? Nel continuare il percorso della memoria. Allora, assolutamente, anche perché evidentemente qualcosa di buono in questi anni è stato fatto. Non era scontato che si ricordasse ancora Giuseppe Pinelli dopo così tanto tempo, né che nuove generazioni raccogliessero un testimone e lo portassero avanti. Giuseppe Pinelli doveva essere cancellato nella volontà di chi lo ha ucciso. Ed è questa la giustizia che Pino ha avuto, non ci sono riusciti. E facciamo tanti incontri anche nelle scuole e ci sono persone che lo conoscono, che sanno che impegno, che valori, che idee ha portato avanti. Ed è per noi della famiglia è fondamentale. Grazie, adesso ci ha raggiunto anche Silvia. Ciao Silvia, benvenuta a Mala Radio. Ciao. Faccio la stessa domanda che ho fatto a tua sorella. Che senso ha dopo 52 anni essere ancora qui a ricordare la figura di tuo padre? Vuol dire che vostro padre ha lasciato qualcosa di importante, un messaggio importante. Direi che sì, ha lasciato un messaggio importante, è stato importante il lavoro che ha fatto Alice. Pino purtroppo fu quel granellino di sabbia che inceppò la macchinazione dello Stato. E non ha avuto giustizia dal punto di vista giudiziario, ma ha avuto una giustizia da parte della storia. Lui è stato riconosciuto innocente già nel 75, comunque con quella discutibilissima sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio, e poi con il riconoscimento da parte di Napolitano come vittima innocente, anzi vittima due volte di pesantissimi e infondati sospetti e di un'improvvisa assurda fine. E quindi comunque stavo dicendo che era bello anche il 12 dicembre vedere un sacco di giovani ancora, no? Vedere un sacco di ragazzi che conoscevano la storia di vostro padre e la sapevano correttamente, cioè come era avvenuta. Quindi vuol dire che il lavoro di Licia, tuo, di Claudia, è servito il lavoro anche dell'Associazione per le Vittime di Piazza Fontana, il fatto di andare a parlare nelle scuole e ricordare che la 18ª vittima è Giuseppe Pinelli. Sì, quindi adesso direi che possiamo andare a cantare. Non siamo, quindi sì. Ringrazio sia te che tua sorella, che non so dove sia finita. Grazie mille. Rieccoci di nuovo in onda, ringraziando Silvia e Claudia Pinelli per le dichiarazioni che ci hanno voluto dare. Parliamo ora di una persona che è legata a questi due eventi, sia alla strage di Piazza Fontana sia alla morte di Giuseppe Pinelli, nel senso che il 12 dicembre 1970 partiti di sinistra, sindacati, anarchici organizzarono la prima manifestazione di commemorazione dell'evento e durante questa manifestazione, esattamente in Via Larga, fu ammazzato uno studente di sinistra, Salverio Saltarelli, che fu ammazzato dalla polizia. E quindi diciamo che la tensione di cui si parlava prima viene fuori proprio anche da questo fatto, che la scia di sangue che si è portato dietro Piazza Fontana continuò anche l'anno successivo. Fu uno dei tanti morti in piazza Saltarelli. Ci fu Ardizzone negli anni 60, cioè Saltarelli, Baralli, Zibecchi, quindi è una strategia, anche questa, dello Stato di ammazzare la, perché non si doveva ricordare, non si doveva ricordare Giuseppe Pinelli, non si dovevano mettere i puntini sulle i sulla responsabilità neofascista della strage. E quindi cosa fa lo Stato quando non ha voglia che certe cose vengano fuori? Trova il modo migliore per distogliere l'attenzione procurando un'altra vittima. Per ricordare Saltarelli direi che potremmo sentirci in rapida successione due canzoni, una di Pino Masi e l'altra invece del collettivo La Comune di La Comune di Dario Fo su Saltarelli, dove in questa canzone dichiara che chi è stato ad ammazzare Saltarelli? Un po' tutti, i pompieri di sinistra, PC, PSI e anche ovviamente i poliziotti, la Democrazia Cristiana, dà insomma la colpa un po' a tutto l'apparato parlamentare. Quindi buon ascolto, prima Pino Masi e poi il collettivo La Comune. Si è fermato il cuore, ma la gente dei quartieri dice ieri Pinelli ce l'hanno assassinato ed oggi Saltarelli. Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo, burocrati e padroni tutti li del Feltrinelli nella nebbia del mattino vanno tutti all'OM dal compagno Martino, e lì Martino piange, non crede nel vedere quando entrano in fabbrica con le rosse bandiere. Basta con i padroni, con questa brutta razza. Gli operai della Pirelli, una gran folla enorme, hanno bruciato in piazza cartelli delle riforme. Poi tutti quanti insieme, 3500, sono entrati alla Siemens con le bandiere al vento, e per tornare al centro non han fatto il biglietto. Noi viaggiamo gratis, paga Colombo han detto. Yeah. ricordo le loro istituzioni, valgono bene un morto, sei morto sulla strada che porta al comunismo, ucciso dai padroni e dal revisionismo. Compagno Salvarelli, noi dimenticheremo burocrati e padroni, tutti li piccheremo. Le bombe, le riforme sono armi del padrone, la nostra sola arma è la rivoluzione. Il 12 dicembre 1970, a un anno di distanza dalla strage borghese di Piazza Fontana, la borghesia celebrava il primo anniversario della strage di Stato con l'assassinio di un giovane militante della sinistra rivoluzionaria, Saverio Saltarelli. Fu nel corso di una giornata di lotta contro la provocazione antipopolare di Piazza Fontana e in appoggio ai compagni spagnoli processati a Burgos che il compagno Saltarelli fu assassinato, colpito da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza Duomo dalla polizia. Immediatamente entrava in azione la propaganda del centro-sinistra sugli opposti estremismi e i riformisti alzavano le mani al cielo deprecando l'uso dissennato della polizia. Accadeva così che nell'assassinio del compagno Saltarelli si manifestavano i piani della borghesia, le responsabilità dei riformisti, la volontà di lotta della sinistra rivoluzionaria. Con questo nuovo delitto, anello di una lunga catena di delitti antipopolari, nelle piazze, nelle fabbriche, ovunque, la borghesia italiana tentava di far fronte alla crescita del movimento popolare di massa che soprattutto durante il periodo delle lotte contrattuali aveva più volte raggiunto livelli di lotta anticapitalista e antiriformista. Con questo nuovo delitto il debito della borghesia nei confronti del proletariato aumentava, aumentando così gli interessi che la borghesia dovrà pagare. Ma gli assassini, gli arresti, le persecuzioni con cui la classe dei padroni difende il proprio potere non potranno mai fermare la lotta del proletariato. Saltarelli. No. No, non dovevi farlo di venire a morirci proprio lì. In via larga. No, non era proprio caso né l'ora né il giorno quello lì. Di sabato. In piazza Duomo, per Dio, c'era la manifestazione unitaria indetta dal PC. Dall'opzio. Con il PSI. C'era l'opzio. Con il PRI. C'era l'opzio. Con il PLI. C'era anche l'opzio. C'era perfino l'AMPI e la DC. Porco cane, perché ti sei fatto accoppare proprio lì? In via larga, poi andiamo. Scusa, Saltarelli, ma sei stato proprio guasto a feste a morire così. Per un candelotto. Provocatore extra parlamentare in collusione con le destre. Come giustamente dice il PC. Era dentro d'un gruppetto di quelli lì. Quali, quali? Che fa finta di voler la rivoluzione comunista proprio qui. Ma sono d'accordo con la reazione per distruggere lo Stato democratico. Proprio questo, sì, quello borghese. Così. L'ha detto anche Berlinguer. Quale Berlinguer? Il vice segretario del PC. Ah, è bravo quello lì. L'ha detto anche Colombo della DC. No, Sal- Santarelli, non dovevi morire proprio così. Santarelli, lo sapevi che era una marcia autorizzata con tutti i partiti democratici, salvo l'MSI. Il questore addirittura un ex partigiano della DC. Sì, è della DC il questore. E ci aveva pure autorizzato di gridare Franco Boia fuori dalla NATO. E basta così. E invece voi vi mettete a gridare abbasso questo stato. Stato assassino, proprio e così. E meno che ti possa capitare è di andarti ad incrociare con un candelotto di circa un chilo giù di lì. Santarelli l'hai voluto tu. Chi va a provocare l'uso di senato della polizia finisce sempre così. Potevi stare tranquillo sotto l'egida del PC anche nello PSI. Santarelli, hai cercato di sfasciare l'unità dei partiti democratici borghesi. Volevi suscitare una mobilitazione generale contro la repressione. Con lo scudo che ti hanno ammazzato con un candelotto grosso così, in via larga. I sindacati non ci sono cascati, hanno scioperato. Come hanno fatto a tavola, a Battipaglia. Anzi, ancora meno di così. Vigilanza, fabbrica e fermi lì. Tutti fermi lì. Santarelli, non ti è riuscito il tuo cadavere, non ha scucito, non ha scalfito l'unità. Il prestigio, la vitalità delle istituzioni democratiche borghesi, come ha detto giustamente il PC, la DC, il PRI, il PSI, il PRICT, il SPI, il PSI. Senti Santarelli, portalo via quel cadavere lì, andiamo a non lasciarcelo in mezzo ai piedi, ci dà un po' fastidio, per favore sii gentile. Eccoci tornati in studio. Prima di continuare volevo dire giusto due informazioni sulle due canzoni che abbiamo appena sentito. Prima quella di Masi, compagno Saltarelli, Saverio Saltarelli. Notare la base della canzone di Pino Masi, che è la stessa della Rosetta, una canzone popolare che ricominciò a girare per Milano anche grazie al contributo dei Goofy, di Nanni Svampa, Magni Brivio e Patron. Invece, come avete notato, è molto teatrale quella del collettivo La Comunità Dario Fo. È un atto d'accusa feroce, è grottesca, dà la colpa a Saltarelli di essere morto, ma come ti permetti di morire? C'è una marcia organizzata da tutti i partiti, tranne l'MSI. Come ti permetti di morire, compagno Saltarelli? Diciamo che, come sempre, ha voluto Dario Fo e il suo collettivo, La Comune, creare un divertismo su un fatto tragico avvenuto appena un anno dalla strage di Piazza Fontana. Prima di salutarvi, volevo ricordarvi che oggi 15 dicembre alle 18 in Piazza Fontana c'è la manifestazione per ricordare il compagno Giuseppe Pinelli. E invece, prima di salutarci, volevo farvi ascoltare la canzone più famosa che riguarda la memoria di Giuseppe Pinelli. È una canzone che fu scritta pochi istanti dopo, proprio un instant song si chiamerebbe adesso, quindi è del 1969. C'è un dibattito se prima sulla base di Gorizia, sulla base del feroce monarchico Bava. Comunque rimane una canzone bellissima e struggente, la ballata del Pinelli, e io ho scelto la versione sull'aria del feroce monarchico Bava. Prima di ascoltarla vi invio i saluti di Mana Radio. Buon ascolto, grazie per essere stati con noi. Ciao. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apro un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. Signor questore, io gliel'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia, amor, libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore del vile attentato, e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo misfatto, tra i padroni bisogna cercar. Stiamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente, era anarchico e questo ci basta, chi seguita il feroce questor. Se una bara e 3000 compagni, stringevamo le nere bandiere. Quel giorno l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato. L'anarchia non avete fermato, ed il popolo al fin vincerà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò.